abbracciami nel profondo del cuore, allo spuntar delle dì, mio dolce amore. Ricordami quando sale nel l'iridescente ve degli astri d'or. Oggi e domani, vicino e da lontano, sempre così, sempre così. Quando l'autunno porta il suo nel profondo del cuore, se vivo ancora ti parrà il nostro amore. Con infinita malinconia ti vedo allora.